In scena Radio Città Fucicola, stagione 2021-2022, ITC Teatro di San Lazzaro, la compagnia del Teatro dell'Argine. Siamo di nuovo ormai redattore della rubrica Casa Sipario sui 103.1. Nicola Bonazzi, buongiorno, bentornato Nicola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno William, buongiorno a tutti. Ridisegnare la bellezza, è già titolo, possiamo chiudere qui l'intervista, perché ridisegnare la bellezza, voglia di ripartire, insomma, ci puoi dire qualcosa di più, Nicola? Ci provo, come hai detto tu, è ridisegnare, cioè non è disegnare, perché è ridisegnare, cioè ci si prova per l'appunto, si prova così a ripartire dove ci eravamo fermati, ecco, questo è un po' il concetto, con la voglia, la necessità, il desiderio fortissimo di ripartire e la speranza fortissima che non ci si fermi quest'anno, insomma. Faccio tutti gli scongiuri del caso, ma dai, speriamo che questa volta vada bene, con tutte naturalmente le limitazioni che la situazione ancora comporta, però ecco, l'importante è ripartire da dove ci eravamo fermati, nel senso che in effetti molte delle cose che proporremo in stagione quest'anno sono cose che avremmo dovuto proporre l'anno passato, a partire appunto dal primo spettacolo che debutta a ottobre, quindi insomma abbastanza presto per noi, ma appunto le cose da recuperare erano tante, che è Sandro, la produzione che rinnova la collaborazione con Andrea Sant'Anastaso, con cui avevamo fatto, diciamo, Andrea Faccio Fumetti, sono Andrea Pazienza, insomma, uno spettacolo è stato molto fortunato, ed è una prima, una opzionale, lo spettacolo era pronto l'anno passato e una settimana dopo ci hanno chiusi, e quindi è lì, è pronto, era già tutto, è stato messo nel freezer e verrà fuori il 6 di ottobre, insomma. Su Pertini, Sandro è Pertini naturalmente, sì, l'unico sì, Sandro sì. Che poi sia riconoscibile con il nome, ecco, diciamo. Sì, da mi chiamo perché... Andrea Faccio Fumetti a Sandro, insomma. Esatto, cioè l'idea era comunque di continuare a esplorare delle figure importanti per il nostro paese tra gli anni 70 e gli anni 80, perché sono stati anni decisivi per la nostra storia contemporanea. Quindi dopo avere così messo le mani in una vita incredibile, straordinaria, eccezionale, con molte luci ma anche molte ombre, come era quella di Andrea Pazienza, ecco che si va a esplorare invece una vita straordinaria in quegli anni decisivi per il nostro paese, ma una vita straordinaria per il nostro paese anche prima, perché noi conosciamo il Pertini presidente, abbiamo tutti nella memoria alcune immagini del Pertini presidente, a partire da Pertini che quasi si lancia dagli spalti del Bernabeu quando l'Italia segna, però è stata una vita straordinaria in quanto soprattutto uno dei più grandi antifascisti, e da lì si apre una stagione, devo dire, molto ricca, perché per l'appunto ci sono tanti spettacoli che dovevamo programmare l'anno scorso, ricca anche di produzioni nuove, ricca anche di nuovi spunti, nel senso che apriamo un nuovo contenitore che abbiamo chiamato Oltre il palcoscenico. Questa è una cosa nuova, perché questo Oltre il palcoscenico ospiterà artisti, compagnie, attori che si fermeranno da noi non solo per lo spazio dello spettacolo, ma anche per qualcosa in più, cioè abbiamo chiesto a loro di portare i loro spettacoli, dopo vi dirò che spettacoli, ma gli abbiamo anche chiesto di fermarsi a fare un incontro con il pubblico, che non è il nostro solito incontro dopo lo spettacolo, c'è proprio una serata dedicata a questo incontro. Molte di queste compagnie proporranno dei film che hanno realizzato, che sono stati realizzati su di loro o che loro hanno realizzato, e poi gli abbiamo chiesto di fare un piccolo laboratorio teatrale attraverso il quale possono così raccontarci, farci vedere, coinvolgerci, e dico coinvolgerci intendendo le persone che frequentano gli edifici teatro, il pubblico, cioè non solo gli specialisti, non solo i professionisti, insomma. Quindi coinvolgerci nelle loro pratiche teatrali. Quindi sarà davvero una 3 giorni, insomma, piuttosto intensa, questo perché ci piace come sempre portare gli artisti a contatto con le persone, con la gente, con il pubblico, oltre il palcoscenico, per l'appunto, cioè oltre lo spazio e il tempo dello spettacolo. Peraltro sono artisti, compagnie molto importanti, i primi a essere ospitati in questa nuova rassegna sono Spiro Scimone e Francesco Sframelli, compagnia Scimone e Sframelli, che è una delle più importanti davvero del nostro panorama. Poi avremo Fabio Mangolini e poi avremo Teatro delle Albe, Paolo Nani e César Brie, artisti straordinari che ci apriranno, come si dice in questi casi, il loro laboratorio. Ecco. Penso davvero che sia un'occasione unica. Gli spettacoli che portano, anche questo è interessante, non sono le loro novità, ma gli abbiamo chiesto di venire con gli spettacoli che loro considerano importanti per il loro percorso o spettacoli a cui sono particolarmente legati. Per esempio Paolo Nani viene con il famoso spettacolo intitolato La Lettera, che è stato visto dai pubblici di mezzo mondo, un spettacolo talmente godibile che uno lo vedrebbe e rivedrebbe per centinaia di volte, e al di là di questo è proprio lo spettacolo che ha decretato il successo, per esempio, di Paolo Nani. Insomma, César Brie viene con Il Mare in Tasca, pezzi della loro storia, insomma. Ecco, quindi accanto a questi, altri personaggi, insomma, del nostro panorama, attori, attrici amatissimi, amatissime, certo, dal nostro pubblico, penso a Giuliana Musso, ecco, per dire, che torna con il suo nuovo, con il suo nuovo spettacolo. Per esempio Classe, che è uno spettacolo che ha avuto davvero molto successo prima della pandemia, poi è stato azzoppato dalla pandemia, ma è uno spettacolo straordinario dal punto di vista proprio estetico, espressivo, insomma, questi pupazzi in scena, penso a 89 con Daniele Timpano, Oliviera Frosini, Marco Cavalcoli, una stagione credo, insomma, interessante, importante, anche con nuove produzioni del Teatro dell'Argine. Ho citato quella con cui apriamo, ma ce ne saranno altre, Luci intorno con Michela Casalboni, uno spettacolo che si chiama The Show Must Go On, cioè non The Show, ma The Show Must Go, The Show inteso come la scarpa, uno spettacolo di figura dove ci sono tanti attori che muovono tante scarpe, è una cosa che avevamo fatto un po' di anni fa all'interno di un progetto, ma era morto lì, insomma, lo spettacolo invece era talmente particolare che, insomma, abbiamo deciso di riprendere, di dargli una nuova vita, di provare a dargli una nuova vita, insomma. Sì, poi ci sono diversi segmenti che si vanno ad aggiungere, diventano linee importanti. Beh, già abbiamo citato della novità, chiamiamola, di una partecipazione che più che partecipazione direi proprio un corpo unico con il pubblico, ma aggiungo la stagione junior, i laboratori, dei progetti, sì, esatto, speciali, esatto. Insomma, è veramente... La stagione junior è un altro pezzo molto importante, se ne occupa la mia collega Vittoria De Carlo, che però ha realizzato davvero una stagione straordinaria, realizza sempre stagioni straordinarie, sono partecipatissime, ma devo dire quest'anno ci sono cose bellissime come Peso un filo con la compagnia di Filippo, fatto tutto di marionette meravigliose, il grande Claudio Milani, Mattia il nonno, che è uno spettacolo che ha vinto un sacco di premi, insomma, quindi davvero, e anche lì produzioni nuove del Teatro dell'Argine, come Il Carretto delle Storie, che è arrivata alla quarta puntata, insomma, che aggiunge fiaba a fiaba. Quindi, e i laboratori, naturalmente, perché l'altra cosa importante, questo mi piace dirlo, è che ci vive non solo il pubblico che viene a vedere gli spettacoli, ma di tutte quelle persone che frequentano le attività laboratoriali. È una grande, noi diciamo sempre una grande famiglia, sembra un po' retorico dire così, la comunità che gravita attorno alla Ticino è una comunità molto ampia, è legata da un collante che è l'amore per il teatro fatto, agito o visto, cioè la pratica del teatro, la visione del teatro è qualcosa che connota fortemente la nostra dimensione umana, insomma è una cosa bella e che è stata interrotta dalla pandemia e che vorremmo riprendesse, e vedo che sta riprendendo, insomma, le attività di laboratorio hanno già aperto le loro iscrizioni, c'è voglia di fare, anche c'è voglia di fare e c'è voglia di riprendere. Al via anche progetti nuovi che coinvolgono l'Istituto Storico Parri di Bologna, Kilowatt, le serre dei Giardini Margherite, sì, sempre di Bologna. Insomma, scaricate il programma, a questo punto non scaricate nel senso di tralasciate, anzi tutt'altro, visto che online è una tra le poche cose, se vogliamo definirle così, che ci dà una possibilità e un valore aggiunto, è consultare il programma più comodamente, quindi abbiamo dato una presentazione a linee più settoriali per avere la totalità, teatrodellargine.org, teatroitc.it, insomma, sia dal punto di vista dei social che con mail e sito si può avere tutta la programmazione di questa ripartenza ridisegnando la bellezza. Io ti ringrazio, esatto, tantissimo, Nicola, per sei grazie. Stato grazie a voi, grazie a te William sempre per questo spazio che ci concedi. e che è molto prezioso. Ricambio per il valore che date al format in scena e non solo nella redazione culturale di Radio Città Fujiko. Buona stagione Nicola, a presto. Grazie mille, buona stagione a tutti.